Non ci sono più le mezze stagioni, di Roberta Giordano. Mi stava proprio girando in un modo vorticoso la testa, perché mi stavo addentrando in tutte le notizie di questa settimana. Dico, sono tantissime, come si farà a parlare di tutte? Però, come sempre, vi chiedo, voi cominciate a lanciarne qualcuna, no? Ci sarà pure qualche notizia che questa settimana vi ha colpito, sulla quale volete dire la vostra. Quindi il numero verde ve lo dico dall'inizio, 800 24 00 24. Sapete che è soprattutto aperta a voi, ascoltatrici e ascoltatori. Poi io faccio naturalmente i miei commenti, introduco e faccio, e poi c'è l'opinionista della settimana, l'opinionista della puntata, opinionista estemporaneo, come dico io. Però vorrei cominciare a entrare nel cuore già dei fatti di questa settimana in un modo un po' trasversale, un po', come si può dire, tangenziale, parallelo, non so, insomma, con tre dispute molto diverse tra di loro. Due mi pare che siano state risolte, una invece completamente aperta. Allora, si parla da Freud, da prima di Freud, della sessualità femminile, i misteri della sessualità femminile, no? Qualche settimana fa ricercatori inglesi avevano detto il punto G non esiste, è un mito, questa zona erogena femminile in realtà è leggenda. Invece ieri ricercatori francesi hanno confermato il punto G esiste, insomma è una zona non ben precisata, e gli studiosi italiani dicono c'è, ma dovremmo cambiargli nome. Ecco, quindi questa è una disputa che pare per il momento risolta. Poi una sentenza particolare del Tribunale dei Minori di Milano di questa settimana, che ha sancito che le famiglie, no? Adesso si parla di famiglie al plurale, ma le famiglie, per esempio, di coppie dello stesso sesso sono in grado davvero di allevare dei figli? Bene, questa sentenza del Tribunale di Milano, a proposito di questa disputa, dice: una lesbica, quindi una donna che ama un'altra donna, può essere una buona madre che cresce i suoi figli secondo uno schema tipicamente familiare. Quindi ha sancito questa cosa. Altra disputa che al momento pare risolta. Invece, una cosa che vorrei sapere anche voi, cosa ne pensate, a chi spetta questa cosa, no? È una disputa che riguarda gli Stati Uniti e riguarda un meteorite. Ogni tanto cade giù un meteorite, no? Dal cielo. Pensate, questo meteorite ha concluso il suo viaggio, un viaggio di milioni di anni nello spazio, perché viaggiano milioni di anni, l'ha concluso sfondando il tetto di uno studio medico vicino Washington, ed è diventato oggetto di grande contesa questo meteorite. Perché? Il 18 gennaio scorso è successo. Allora, però, se ne è avuta notizia ieri o l'altro ieri. I due medici che hanno in affitto questo studio sono stati generosi. Cosa hanno fatto? Hanno deciso di regalare questi frammenti spaziali, sono cinque grossi frammenti spaziali, per fortuna nessun ferito, al Museo di Storia Naturale di Washington, e l'assegno di $5,000, che il museo però per gratitudine vuol dare loro, andrebbe ai bambini di Haiti. Ma a questo punto cosa succede? I proprietari di questo stabile dicono: no, il meteorite spetta a noi, è roba nostra, pensate che se si vendesse potrebbero guadagnarci $50,000 con questi pezzetti così, diciamo, piuttosto coriacei. E quindi è aperta disputa, perché dicono questi proprietari dello stabile che la legge americana stabilisce che un meteorite, cioè persino una legge sui meteoriti, diventa parte del territorio dove cade. Ecco, questa è una disputa che invece rimane aperta. Se volete dire la vostra, e se volete dire la vostra sulle notizie della settimana, 800 24 00 24. Prendo un po' di fiato e vi annuncio, signore e signori, l'opinionista estemporaneo di questa settimana è... Lidia Ravera. Lidia? Buongiorno. Sei con noi? Qua. Buongiorno. Lidia Ravera, sapete, scrittrice famosa, sceneggiatrice, tutti la conoscono soprattutto perché a 20 anni è diventata famosa scrivendo un libro insieme a Marco Lombardo, famosissimo Porci con le ali, che a volte diventa un po' una maledizione, una cosa di grandissimo successo che, diciamo, ti caratterizza, ti connota per tutta la vita. Però Lidia ha scritto naturalmente molti altri romanzi, molti saggi, l'ultimo La guerra dei figli, se non sbaglio. Lidia, però io vorrei parlare invece con te di un libro, in realtà un testo teatrale che tu porti in giro a diverso tempo, ma che adesso è stato pubblicato da Melampo, e si chiama La donna gigante. Prima di parlarne 3 minuti vorrei chiederti subito, così dimmi solo il titolo di una notizia della settimana che ti ha colpita, poi dopo approfondiamo in seguito. Ma mi ha colpito l'ennesimo dibattito sul velo. Il burka. Da questa decisione della Francia di vietare burka, niqab, eccetera, tutto quello che copre la faccia delle donne. Mm-hmm. E che poi si riapre in parte dell'Occidente, almeno poi anche da noi in Italia, no? Se ne è ripreso a parlare. Comunque, di questo, quindi questa è la prima notizia che viene in mente, Lidia Ravera. Per voi il numero verde, lo ripeto, è 800 24 00 24. C'è Giorgio De Luca che già sta cominciando a prendere con i suoi 1000 tentacoli di telefoni. E Lidia, invece, questa donna gigante, questo testo che è stato pubblicato. Questa donna gigante viene, è un testo che ho scritto in tre momenti diversi della mia vita, ed è un giorno nella vita di una donna, sempre la stessa donna, sempre lo stesso giorno. Mm. Quando ha 30 anni, quando ne ha 40 e quando ne ha 50. Cambiano un po' le cose, insomma, no? Cambiano un po' le cose e molte restano uguali, anzi peggiorano. Ed è il rapporto delle donne con il tempo, sia con il tempo che non basta mai, della tripla presenza, la giornata, dover essere madri, mogli, carine, sexy, professioniste, intellettuali, brillanti, cioè la famosa performance che tutte ci opprime da tempo immemorabile, e poi anche il rapporto col tempo che passa, che mentre per gli uomini passa anche positivamente, perché la maturità è una conquista di cultura, spesso di denaro, di potere, per le donne pare che passi a perdere, perché alle donne non è consentito maturare oltre un certo tot, poi cadono dall'albero e si spiaccicano sul quando terreno, cominciano a avere i primi segni, le prime rughe, quindi non sono più appetibili e più interessanti. È una, è un sentito resoconto del nostro rapporto col tempo, quindi, come dire, si ride, si piange e vedo che prende molto le donne in sala e anche gli uomini, perché poi questa donna gigante c'ha un compagno buonissimo, gentilissimo, dolcissimo, un uomo quasi perfetto di cui è difficilissimo liberarsi. Tra l'altro leggevo in Femminile in Mente, che leggevo in questi giorni dal Telegraph, il quotidiano britannico, che parlava delle quintastic, cioè di donne cinquantenni fantastiche, perché sottolinea, non è il solo, insomma, a dire che ormai l'età è solo è semplicemente apparente, quella anagrafica, conta invece quella che tu ti senti veramente, anche se a volte è un alibi, insomma, un modo di consolarsi, ma comunque ci sono veramente ormai tantissime cinquantenni, ma parlava sia di uomini che di donne, che a quest'età in realtà ne dimostrano molti meno, sia perché vabbè ci sono delle cure, c'è la ginnastica, ci sono dei metodi, nuove tecnologie, eccetera eccetera, ma diceva forse la spinta maggiore a rimanere così giovani è una grande voglia di vivere. A me pare un po' in contrasto coi tempi nostri, perché anzi sembrano tutti un po' depressi, un po' nevrotici, si parla tanto di consumo di cocaina, di altre, non so se sia proprio questa grande voglia di vivere, però insomma, fatto positivo che apparentemente che certo è che la vita dura di più, quindi bisogna riposizionarsi psicologicamente, perché uno arriva a 50 anni, c'ha altri 36 anni davanti, se una donna, dico mediamente, solo fare la media nazionale, quindi magari anche di più, per cui hai un'intera vita ancora davanti, più di 30 anni, per cui devi comunque riposizionare le tappe, perché la durata ti dà degli obblighi se non vuoi passare 30 anni della vita in un angolino a cercare di scomparire nella tappezzeria. Qualcosa devi fare psicologicamente e fisicamente, quindi tocca lavorare, no? Tocca lavorare dentro e fuori, insomma. Ho capito. Lidia Ravera adesso quindi ci terrà compagnia con le sue opinioni, con le sue riflessioni sulle notizie della settimana, anche Lidia, ma qualche riflessione anche extraterrena la vorremmo pure avere, no? Riflessioni da Marte. Dato che nella scorsa puntata, prima puntata, no, della nuova stagione di Non ci sono più le mezze stagioni, qui da Marte ho tenuto a darvi, vi ricordate, una volta tanto delle buone notizie, no? Come il fatto per esempio di non dover più sopportare le lunghe liste d'attesa per fare le radiografie, no? Visto che adesso ormai a radiografarvi ci penserà direttamente il body scanner negli aeroporti, anche questa volta dicevo non voglio essere da meno, no? Prendeteci però gusto, che le buone notizie che si trovano così sotto gli alberi, però ce ne sono in abbondanza anche questa settimana. Per esempio, in questa crisi economica generale, no, che ha messo un po' tutti in ginocchio, che distrugge posti di lavoro, c'è invece chi non si dà per vinto, chi non si scoraggia, chi aguzza l'ingegno e costituisce, sentite un po', l'azienda più florida d'Italia. Si chiama, ci avevo qui appuntato, si chiama, ecco, Mafia S.P.A. Fattura, pensate, 135 miliardi di euro l'anno. Vedete che basta rimboccarsi un po' le maniche, no? Avere un po' di creatività, un po' di iniziativa. E che diamine, la Mafia S.P.A. ha avuto i suoi ottimi risultati, ce l'ha fatta, si è data da fare. Come diceva la canzone, uno su mille ce la fa. Ma le buone notizie, quelle che insomma svegliano da torpore apatico, dall'immobilità inconcludente, non finiscono qui. In un'epoca dove si fa sempre più pressante, lo sappiamo tutti, no? L'urgenza di salvare il pianeta Terra dalla catastrofe ambientale. Sotto gli occhi indifferenti dei governi parolai, qualcuno invece si erge finalmente a paladino della salvaguardia del globo terracqueo. E questi risponde al nome di Bin Laden, quelli che tutti definiscono lo sceicco del terrore, no, si è dimostrato invece un uomo postmoderno di grande lungimiranza e sensibilità ecologica. Nel suo ultimo messaggio audio in questi giorni ha infatti lanciato un anatema sui mutamenti climatici, chi l'avrebbe detto? E se poi ogni tanto mira, per carità, a far fuori un po' di gente, lo farà solo in un'ottica appunto ecologista. Meno siamo, penserà, e meno inquiniamo. E per finire con le buone notizie vorrei citare un uomo tutto d'un pezzo, come si può dire, Tony Blair, ex primo ministro britannico, che ieri, nella sua deposizione davanti alla commissione d'inchiesta che indaga sul ruolo della Gran Bretagna nella guerra in Iraq, ha detto: «Non mi sono pentito, la guerra la rifarei». Oh, finalmente! Un uomo coerente, no, con tutti quelli che prima dicono e fanno una cosa, poi la ritrattano. Ha contribuito, Blair, a devastare un paese e lo rifarebbe. Evviva la coerenza ed evviva anche la faccia. C'è però, attenzione, anche una brutta notizia. Una ricerca olandese ha dimostrato che se non si dorme la materia grigia diminuisce. Insomma, il cervello dimagrisce, ci si rincretinisce, ecco così. E a guardare da quassù, da Marte, si ha come l'impressione che molti sulla Terra non dormano proprio mai. Ritorniamo allora sulla Terra e comincerei a sentire le vostre opinioni, le vostre notizie al numero verde 800 24 00 24. Poi, se riesco con una bombola di ossigeno, vi faccio anche una sintesi estrema di alcune delle notizie della settimana, ma vorrei cominciare a sentire Cesarina da Sesto San Giovanni, quindi provincia di Milano. Cesarina. Sì, salve. Salve a te. Salve, buona giornata a tutti. Grazie. L'hai iniziata bene tu questa giornata? Uno deve avere sempre fiducia. Bene. Sempre. Mi piace questo ottimismo. Deve essere responsabile di ciò che fa. Certo. Deve credere in ciò che crede e convincere gli altri che ci sono dei doveri e dei diritti. Faccio una piega al tuo discorso. È sì, vero? Sì. Posso, sono d'accordo. Ma io sono un insegnante in pensione e magari vorrei dire però con tanta fiducia nel futuro, veramente. Bene. Tanta. Visto che allora, manca, è un gran periodo in cui la fiducia forse è uno dei beni che più allora, scarseggiano. Allora, sento una cosa. Sì. Io andavo sempre, quando studiavo all'università, andavamo con un magnifico sacerdote. Lui diceva, ma ci credi, non ci credi? Io volevo parlare d'altro, però siamo andati in questo. Allora discutiamo insieme, ci sono dei problemi. Ci dobbiamo credere alla Bibbia, ci dobbiamo credere alla Madonna, queste cose, ne discutiamo, ne parliamo, però diceva sempre dovete avere fiducia nella Divina Provvidenza, ma io non l'ho chiamata per questo, perché voi prima dicevate voglia di vivere, fiducia di vivere, però volevo parlare un'altra cosa, nel frattempo siete passati con questo, sì, bisogna guardare lontano, credere in ciò che noi crediamo, noi pensiamo giusto, essere onesti fino in fondo. Sempre. Sono d'accordo, dopo questa iniezione di fiducia. Questo io ho detto, sì. Figlio, ma tu hai detto di stare con la schiena dritta. Dritta. Sei contento? Sì. Lui mi dice, mamma, è stata dura, ma nel tempo ce avevi si fa. Ragione. Cesarina, quindi dopo questa iniezione di fiducia, dicevo, la tua notizia della settimana qual è? I magistrati, quando voi dite lì e non mi piace. Lì dove? Che tu ti ha messo sotto il braccio il loro libro. Mio nonno era un giudice nel sud, noi siamo del piemontese. E quando sono arrivati i primi a dirle che qui c'è la gallina, c'è il pollo, vai, gli ha detto vai via e ha fatto il suo lavoro là come giudice. E mio quindi nonno niente compromessi. 65. Sì. Quindi i giudici sono pecoroni e basta. Io non dico politici, pecoroni. Bisogna un po' ingiusto. Ultima cosa per la scuola, finisco. Sì. A un certo punto nella scuola si è detto, finita la scuola media, beh, i ragazzi hanno 14 anni, 15, fino a 16 anni non si va a scuola. Una volta si bocciava, ora non si boccia più, arrivano alla scuola media, che non sanno né leggere, né scrivere, né far di conto. In prima, ma dai, passalo i colleghi della CGIL, passalo, niente, non ho detto niente, passalo che poverino, gli facciamo paura. In seconda, non fa poco, ma dai, lo rimandiamo di questo e di quell'altro, poi passalo. In terza, ma mandalo via che dà fastidio. Risultato, abbiamo creato i no global. Cesarina, diciamo una specie di causa effetto, di filo conduttore, di connessioni un po' così. Però Cesarina, volevo sapere, scusami, e poi ci lasciamo, che tra poco c'è anche il ragionamento per chi sta viaggiando. Tu che cosa hai mangiato per mantenerti in forma nella tua vita? E industriale. Cesarina. Ho mangiato quella agricola in Piemonte. Pronto. C'era uno. Cesarina, mi senti? No, lo dicevo, adesso probabilmente non riusciamo a sentirci con Cesarina, perché vedevo adesso sul Corriere.it, visto che le notizie sono di tutte le nature, che è stato svelato il segreto della Thatcher, ex Lady di Ferro, no? Prima ministra britannica, 28 uova alla settimana. Prima dicono che fa male al fegato, il colesterolo, poi dopo insomma sono state un po' riabilitate, ma 28 alla settimana. Tu Cesarina non è che mangiavi tante uova, no? Non c'è più Cesarina, niente. Roberta Giordano sempre con voi per fare insieme a voi un bilancio delle notizie della settimana e poter ritornare appunto sui fatti con le opinioni più diverse vostre, della mia opinionista estemporanea che oggi è Lidia Ravera, scrittrice, sceneggiatrice, ultimamente ha pubblicato La guerra dei figli, ma anche Melampo ha pubblicato La donna gigante, che è il suo monologo teatrale appunto sul passare del tempo per le donne e sulla quantità di tempo a disposizione. Diceva prima Lidia che vuole parlare, scusate se ha la voce un po' ultimamente così provata, della riflessione, della disputa ancora, no, sul burqa in Francia, la volontà di vietarlo almeno nei luoghi pubblici, perché le donne siano, e chi c'è sotto insomma questi veli, identificabile pubblicamente, e poi le ripercussioni anche in Italia. Però prima di lasciare la parola a Lidia agli ascoltatori che ci saranno tra poco, volevo farvi come sempre questo tentativo sempre disperato di un'estrema sintesi di alcune, solo alcune delle notizie della settimana. Per esempio, una che è in corso, possiamo dire così, in questo momento è la protesta dei magistrati, no? L'inaugurazione dell'anno giudiziario, l'avevano già annunciato giorni fa i magistrati, che avrebbero protestato contro la politica sulla giustizia del governo, e lo fanno lasciando l'aula vuota quando parla il ministro della giustizia Alfano e portandosi sotto, lasciando l'aula, portandosi sotto il braccio il libro, come diceva Cesarina, in realtà appunto è la Costituzione. Poi Haiti, non dimentichiamo, Haiti sempre deve essere in primo piano, salvataggi miracolosi che ci sono stati fino a pochi giorni fa, però la popolazione che tenta di ritornare a un'apparente normalità in realtà in condizioni disperate, e qualcuno si chiede opportunamente che fine farà Haiti. E poi legato a questo l'incidente diplomatico che c'è stato tra Italia e Stati Uniti con il sottosegretario Bertolaso, capo della protezione civile, che lì ad Haiti ha detto insomma parole diciamo non particolarmente lusinghiere nei confronti degli Stati Uniti, di come si stavano muovendo per gli aiuti. E poi comunque sempre relativamente a Bertolaso, Berlusconi che ieri all'Aquila ha annunciato che lo farà ministro. C'è in corso a Davos il forum economico mondiale, poi non dimentichiamo il 27 gennaio c'è stata la giornata della memoria per ricordare le vittime della pazzia, della follia nazista, e ancora l'Iran non si è risparmiato di lanciare nuove minacce a Israele. In Italia problemi dell'occupazione molto seri, oltre 2 milioni di disoccupati, stipendi tra l'altro secondo il rapporto Eurispes i nostri italiani tra i più bassi dei paesi industrializzati dell'OCSE, quindi. E poi disoccupazione, tra l'altro, dati Istat all'8,5%. L'avvertenza Fiat, sembra che si riaprano degli spiragli per un dialogo tra la Fiat, il governo e le parti sociali. All'estero, buona notizia per gli Stati Uniti, il PIL, il prodotto interno lordo, che segna un rialzo nell'ultimo trimestre del 2009 del 5,7%. Poi il discorso dell'Unione di Obama, il suo primo discorso all'Unione, no? Gli Stati Uniti, dice: abbiamo fatto degli errori, ma non molleremo. Poi in Afghanistan l'ONU e 70 governi hanno siglato un'intesa per dare via a un piano di transizione e cercare, volenti o nolenti, degli accordi con i talebani, anche se, vorrei sottolinearlo, sembra che vi sia inflessibilità sui diritti delle donne. Staremo a vedere se non devono sempre essere poi venduti per in cambio di altro, barattati con altro. Blair, l'abbiamo ricordato in qualche modo, che ha deposto ieri davanti a questa commissione di inchiesta. È particolare questa cosa che la Gran Bretagna abbia scelto, seppure non ha in realtà, diciamo, le funzioni di un tribunale, non potrà emettere delle sentenze, ma ha comunque creato questa commissione di inchiesta alla Gran Bretagna, che vuole sapere un po' la verità sull'intervento dell'Inghilterra in Iraq. Poi è stato rapito in Messico, sempre per rimanere all'estero, un commerciante italiano. Sulle notizie italiane, purtroppo, i funerali delle bimbe di Favara, della casa crollata. A Ischia avete sentito anche lì tutto quel trambusto per questo piano di demolizione di case abusive. La mafia SPA, con 135 miliardi di fatturato, la prima azienda italiana, e lo denuncia la Confesercenti. Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, che ha detto: chi delle imprese a noi associate a Confindustria paga il pizzo sarà esclusa, sarà mandata via. Piano del governo per battere la mafia in 10 punti. Berlusconi, che in qualche modo ha associato i clandestini, insomma, alla criminalità, al fatto che comunque possano arricchire le sacche di criminalità in Italia. La Cassazione su Cosentino, sul sottosegretario dell'economia Cosentino, che ha detto: è legittima la richiesta d'arresto, però comunque non verrà arrestato, perché sapete che è necessario, essendo deputato, che la Camera l'autorizzazione per procedere appunto contro un deputato, un parlamentare, insomma, ha respinto questa richiesta. Poi, dicevamo con Lidia Ravera, il dibattito sul burka in Francia, le grandi manovre in Italia per le elezioni regionali, con questa vittoria sorprendente di Vendola, le dimissioni del sindaco di Bologna Del Bono, l'allarme smog a Milano. Ricordatevi che domani Milano bloccata, niente macchine dalle 10 alle 18, se mi ricordo, sì. La caccia, le proteste per le doppiette no limits, come è stato detto, cioè deroghe regionali per creare, diciamo, un periodo stagionale più lungo per fare fuori gli animali, e la ministra Prestigiacomo dell'ambiente, che insomma è piuttosto arrabbiata e dice: cambieremo la legge. Le materie della maturità, che sono state annunciate dalla ministra Gelmini su YouTube. La Toyota, che dovrebbe richiamare quasi 2 milioni di auto che hanno un difetto all'acceleratore. L'esonero di Ciro Ferrara come allenatore della Juventus. Bombola di ossigeno, Lidia, scusami. Allora, dicevi... E tanto per che dare un'idea, ho fatto quello che potevo. Quindi la riflessione sul burka. Ma a me sembra bizzarro che si continui a legiferare sul corpo delle donne. È chiaro che il burka o il girare coperte, velate, rinchiuse è il frutto di una società, di una cultura maschilista, repressiva, più che non un omaggio alla religione, che pare che il Corano non lo richieda affatto. Così, insomma, si ripete da più così tempo. Dicono. Ma da questo a metterle fuori legge, è possibile che non si pensi mai, quando si tratta di donne che sono persone, che quindi hanno diritto di scegliere? Quelle che ce la fanno a ribellarsi a queste tradizioni repressive dovrebbero essere sostenute, aiutate, comprese, puntellate in tutti i modi, ma non si può imporsi, ecco, non si può imporre per legge che le donne si spoglino, si vestano. Anche poi l'esposizione generalizzata delle carni, che ormai invece è il trend occidentale, non so quanto sia un modello positivo. Anche se, Lidia, poi a volte si antepone anche questa cosa come giustificazione, direi: non crediate voi occidentali di essere più civili, però non può essere o l'uno o l'altro, cioè deve essere una scelta delle donne. Il problema è che bisogna rispettare le culture altre, soprattutto rispettare gli immigrati, perché poi da un lato c'è questa battaglia falsamente cavalleresca e falsamente femminista di mettere fuori legge le donne velate, e dall'altra si fa carne da macello delle donne e si fanno dichiarazioni sugli immigrati terrificanti. Lidia, però non si corre. Se entrano meno immigrati ci sarà meno criminalità, cioè, persino i vescovi si sono ribellati. Sì, no, l'equazione effettivamente, però Lidia, non c'è anche il rischio, quando si dice rispettare le culture altre, che le culture altre alla fine siano di una parte della popolazione, cioè quella maschile che l'impone anche a quella femminile, no? A volte si tollera l'intollerabile, però, diciamo. Mascherato da cultura altra. Le donne sono persone, non possono essere tenute in stato di minorità. Certo, questo sarà un problema loro. Appunto, dico, creiamo dei gruppi, parliamo. L'interculturalismo il dialogo continuo, costante, costruttivo, il cercare di capirsi, l'empatia, su una base di parità, può dare dei risultati, ma l'imposizione, secondo me, radicalizza certi comportamenti estremi, quindi oltretutto va proprio contro la possibilità di una convivenza civile. Ormai bisogna tener conto che l'immigrazione massiccia fa parte delle nostre realtà, le nostre società non sono più monolitiche, monocolore, e quindi bisogna vivere questa varietà nel rispetto reciproco. Ecco, nel rispetto dei diritti di tutti e soprattutto direi delle donne. C'è Lino da Lanciano, che mi pare di ricordare nelle Marche, Lino Lanciano, no? Il numero verde 800240024. Lino. Sì, buon pomeriggio, no, la correggo, Lanciano, provincia di Chieti, Abruzzo. Abruzzo, perdonami, sì, Abruzzo, sì, sono due regioni confinanti, ma è chiaro che se è vicino Chieti è Abruzzo. Certo. Prego, Lino. Niente, io volevo intervenire per quanto riguarda il nostro, diciamo, le esternazioni del nostro super ministro tutto fare Brunetta, che ha ipotizzato la sua candidatura a sindaco di Venezia. Sì. No, sembra che sia ormai decisa questa candidatura, sì. Ah, quindi è decisa addirittura. Sì. Beh, oddio, mi sembra una cosa alquanto irrealizzabile, nel senso, non vedo come possa un ministro, tra l'altro anche deputato, fare anche il sindaco, cioè il problema del doppio incarico, dici tu, che anche di questo si parla da tempo. Questo, beh, è difficile, io parlo della mia piccola realtà, Lanciano è un paese di 36.000 abitanti e il sindaco comunque ha il suo bel da fare. Adesso Venezia, essendo una città molto più grande, molto più problematica sotto molti punti di vista, tra l'altro candidata, si vuole candidare almeno alle Olimpiadi del 2020, sì. Se non sbaglio, sì, insieme a 2020, sì, sì. Quindi cioè, mi sembra veramente un fantascienza, ecco, un po' come sto ministro, perché effettivamente lui è così, come dire, esuberante, vuole far vedere che si impegna, fa, però ecco, poi quella dichiarazione che ha dato, tagliare le pensioni di anzianità per dare un sussidio ai giovani. Sì, un incentivo ai giovani per uscire di casa. 500 euro, sì. Mi sembra. Ma perché non si tagliassero un attimo gli stipendi loro? Cioè, su questo effettivamente una riflessione ci vorrebbe. Si continua a parlare degli sprechi, del fatto appunto che sempre ogni nuova legislatura si dicono i parlamentari, beh, cerchiamo un po' di insomma di contenere, di calmierare i nostri stipendi, le nostre spese, ma questo sembra che non accada mai. Lino, bene, allora questa era la tua notizia. Gli unici ad aver avuto un'agevolazione sulle tasse, poi tra l'altro in questo anno, sono stati loro. Noi cittadini comuni mortali non abbiamo avuto nessuna agevolazione a livello di tassazione. Non so se questo lei lo sa. Beh, sì, è una questione un po' complessa, ma in effetti no, si continua a discutere del fatto che viene promesso che verranno ridotte le tasse, poi però non è possibile perché sennò è macelleria sociale e dopo bisogna decurtare da altre parti. Insomma, questo apre poi un argomento ancora più ampio. Lino, ti ringrazio e grazie a lei. Grazie a te. Paolo Corleoni, dal Mese in Onda, mi sta avvisando che c'è la nostra pausa, poi ritorniamo sempre insieme, sempre anche con Lidia Ravera, con le vostre opinioni sui fatti di questa settimana al numero verde 800240024. E vi ricordo che questo programma poi si può riascoltare, come gli altri programmi di Radio 24, sul sito di radio24.it. Siamo sempre qui, Roberta Giordano con voi. Abbiamo ancora una mezz'oretta per commentare insieme le notizie della settimana. Numero verde 800240024. Tra poco c'è Francesca Carla, poi c'è Giancarlo, c'è Mohamed, insomma ci sono tante telefonate. Però volevo chiedere a Lidia Ravera, no? Tra i fatti di questa settimana mi ha colpito per esempio che su Facebook, visto che ormai tutti, anche i politici, no? Lo frequentano molto, Veltroni, ex segretario del PD, ha citato Mourinho, si mescola calcio e politica, dicendo in Italia non si può innovare, ha citato una frase di Mourinho, si può solo resistere. Probabilmente so, qualche riferimento anche politico c'era. Secondo te è così, Lidia, che in Italia si può soltanto resistere, c'è immobilità, non c'è altra possibilità di... Ma certo, vengono molto premiati i conformisti e gli opportunisti. È un po' una... C'è un po' una democrazia bloccata nel nostro paese, quasi nessuno osa fare la voce solista, non stare protetto né da un gruppo né da un altro, né da una famiglia politica né da un altro. Questo crea un po' un pantano in cui tutto sembra muoversi molto lentamente. È un pochino vero che si rischia a esprimere delle opinioni in qualche modo diverse, non allineate e soprattutto non etichettabili né da una parte né dall'altra. È difficile uscire fuori dagli schemi, ecco. In questo è un po' vero. Curioso che Veltroni consegni queste sue riflessioni a Facebook. Ormai si vede che quello è diventato un po' il mondo parallelo. Ci stavo un po' pensando anch'io, perché qualcuno ha aperto un fan club di Non ci sono più le mezze stagioni su Facebook, se volete andare. Io ancora sono un po' così, diciamo. I fan club sono continui. Io ricevo spesso inviti, il signor Mario Rossi ti invita a partecipare al fan club di Mario Rossi. Che voglio dire, va benissimo, forse è quello che tutti quanti desidereremmo, cioè di avere invece che degli amici dei fan. Però è un po' curioso, è interessante l'articolo che c'è su Repubblica di oggi, insomma, Alessandro Baricco mi pare dalla parte sì, l'amicizia prima di Facebook, parlano dell'amicizia prima di Facebook, sì, e di come si modifica questa amicizia liquida, questi amici che sono una specie di protoplasma in espansione continua, poi però quando vai a quagliare sotto, acchiappi. Che cosa dura? Anche questo è un argomento di grande interesse che apre veramente altre tante finestre. L'avete sentito, la mia opinionista estemporanea di oggi è Lidia Ravera, no? Scrittrice e sceneggiatrice. È stato pubblicato La donna gigante, il suo testo teatrale sul passare del tempo per le donne. Ritorniamo al numero verde con le ascoltatrici e gli ascoltatori, al numero verde 800, dicevo, 24 0024. Francesca Carla. Oh, buon pomeriggio Roberta, buon pomeriggio a tutti. Grazie Francesca e grazie della pazienza a tutti voi, perché ce ne sono molti in attesa, cercherò di essere più veloce. Francesca, di cosa vuoi parlare? Guarda, oggi? La notizia della settimana, ce ne sono tantissime che mi hanno colpita, è veramente. Una per tutte. Una che mi fa sanguinare il cuore è quella faccenda lì che vogliono della caccia. Ecco, che si può cacciare tutto l'anno e qua e là. Ma io dico, ma la caccia aveva un significato un tempo, quando uno andava a caccia proprio anche per mangiare, prendeva un fagiano, una lepre. Ma adesso, ma per sport, questa cosa non la capisco, anche perché, guardi, io abito vicino ad un parco, e specialmente d'inverno a volte metto delle briciole, no? Così, di biscotti sul mio vengono degli uccellini, vengono i passeri, vengono i petirossi, le cinciarelle, i merli, e dico, ma come si fa a sparare un uccellino? Ma dico, ma cacciatori, ma posate i fucili, che la polenta è più buona senza oselli. Speriamo. Secondo Francesca, confidiamo nella ministra Prestigiacomo che insomma si è ripromessa di cambiare questa legge e di porre dei limiti più restrittivi. Tra l'altro vedevo, Francesca Carla, sul Corriere.it in questo momento una bella immagine che viene dal Kenya e c'è la carezza, il titolo è La carezza dei ghepardi alla piccola antilope. Ci sono dei ghepardi che con la zampetta carezzano quest'antilope. Sono tre felini, no? Si imbattono in quella che normalmente sarebbe una loro preda e loro stanno lì a carezzare, a volte come sono sorprendenti gli animali. Grazie Francesca Carla di questa tua sensibilità, di aver ricordato anche questa fra le notizie della settimana. Sentirei adesso Mohamed dalla provincia di Modena. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Mohamed. Ciao, grazie per aver chiamato. Grazie a te. Sono stati contattativi. Sì. E cercavo però di contattarvi. Volevo solo parlare del caso dell'ultima dichiarazione di Berlusconi, del Presidente della Repubblica. Il capo del governo. Sì, su chi? Sull'ultima dichiarazione che ha detto che se le coazioni che l'extra comunitaria è uguale alle crimini. E voglio solo ricordare, come secondo me anche. No, non ha proprio detto così, ha detto che rimpinguano un po' le sacche della criminalità organizzata. Sì, in un'altra maniera. Sì. Comunque voglio solo farlo ricordare che lui era prima un imprenditore, sì, che fino adesso anche ci sono anche delle aziende che si sono, grazie agli immigrati, che hanno portato anche al prodotto interno lordo, che oggi ho visto anche nel telegiornale, che sono della dichiarazione di Bonanni della CISL, che ha detto che sono il 10% del prodotto interno lordo del paese. Questo vuol dire che noi per la mancanza anche di una politica di integrazione che non è quelle che sono, adesso che dicono che sono anche nelle prigioni, si sono pieni di extracomunitari, ci sono una percentuale molto alta. Le prigioni. Prigioni. Ma voglio anche ricordare che anche una delle cause, anche per le 4-5 hanno dimostrato, hanno fatto vedere anche chi sono in mancanza di permesso di soggiorno, che sono passati dalla regolarizzazione alla clandestinità, mancanza proprio di una politica. Mohamed, senti, ecco, appunto, a proposito di politica di integrazione, dimmi due o tre suggerimenti che daresti. Sì, ma sinteticamente. Sì, allora, uno dei punti, perché io stesso che ti parlo, che sono 16 anni che sono in Italia. Di dove sei tu intanto? Di dove sei originario? Sì, sono del Marocco. Del Marocco, sì. Quindi allora, due o tre suggerimenti, molto velocemente. Sì, uno dei suggerimenti, prima volta almeno dare la possibilità del rinnovo del permesso di soggiorno a una durata più lunga, per dare la possibilità delle persone di trovare un posto di lavoro, perché loro hanno legato il posto di lavoro al rinnovo del permesso di soggiorno. Sì. Poi? Secondo punto, poi, il caso delle figlie che sono nate qua in Italia, è l'unico paese che sia ancora questa, che non possono avere la cittadinanza italiana finché saranno dopo 10 anni. Non è un altro paese. Nati, sì, dai, i figli sono nati qua, che sono diventati quasi italiani, che difendono anche domani, che difendono anche la bandiera italiana. Sì, e poi un terzo, se ti viene in mente, un terzo suggerimento? Il terzo suggerimento, io credo che uno dei punti che è molto importante dare il voto almeno administrativo per le extracomunitarie. Questo è il punto. Come, è possibile che pagare le tasse e non ha anche il diritto di scegliere il suo primo cittadino. Da chi essere amministrati. Ho capito, Mohamed, io ti ringrazio molto, ti ringrazio anche per grazie a te. Grazie per la tua attenzione, il tuo interesse, la tua partecipazione. Il numero verde è sempre 800 24 00 24. È il turno Giancarlo da Milano. Giancarlo, grazie anche a te per la pazienza. È un piacere sentirti, Roberta. Senti, io volevo parlare del burka. Sì. Mettiamo che una donna che guida una macchina ha un incidente, viene la polizia. Sì. Come fa a sapere che quella che guida quella macchina è proprio lei? Ma nel senso, se colgono in flagrante, diciamo, questo incidente, questa situazione, se l'incidente avviene nel momento in cui poi la polizia può intervenire, probabilmente semplicemente si solleva il velo, no? Credo. Tu dici invece. Non lo so, se lei non se lo vuole togliere, come faccio a sapere che quella lì è proprio lei? Sì, no, in quel momento penso che sia costretta una persona, anche se avesse uno scafandro in testa, naturalmente. Non so se è proprio questo il cuore che dici, Giancarlo, della questione. Tu sei favorevole o contrario e per che motivo? Come ho capito? Tu, Giancarlo, sei favorevole o contrario e per quale motivo? Appunto, perché una che guida una macchina deve vederla in faccia, devo vedere io. Ma quindi per una questione di identificazione pubblica o di diritti e di indipendenza e autonomia del donna? No, l'identificazione pubblica, che se va in banca, se va che deve toglierselo, no? Perciò mi sembra anche logico. Giancarlo, che stai facendo in questo momento con queste macchine che passano? Sto guidando, che sto andando al campo di volo per fare un volo con l'aeroplano. Mi raccomando, prudenza, va bene. Ciao. Buon volo, grazie, ciao Giancarlo. Giuliano dalla provincia di Varese. Buongiorno. Buongiorno Giuliano. Ecco, allora non le faccio i complimenti per la trasmissione perché glielo fanno un po' tutti. Ma insomma, sempre gradito, prego. Che la signora che ha parlato prima, anche adesso, non è una questione che ce l'hanno con le donne, è una questione per antiterrorismo, perché qualunque portarlo può essere anche un uomo, ed è già successo queste cose. Questa è la ragione per il burka. Poi dopo ognuno è libero di farlo o non di farlo, non è questione di discriminazione. Poi un'altra cosa un po' veloce, il fatto del brunetto. Il brunetto può fare il sindaco e anche il ministro, perché la legge gli permette. In Francia ce ne sono tanti degli onorevoli che fanno sindaco della loro città e lo fanno benissimo. Il problema non è quello che guadagnano o non che guadagnano, secondo me, il problema è quello che fanno. Perché è anche giusto che guadagnano, tutte demagogie, guadagnano troppo, guadagnano poco. E terza cosa, praticamente pensavo che gliele diceva lei queste cose, invece. Ma lo so, è vero, si dice sempre quando si tirano fuori gli stipendi dei parlamentari italiani, che tra l'altro, uscita la classifica pochi mesi fa, sono gli stipendi più alti in Europa, sembra sempre si accusati di fare demagogia quando si dice insomma sono pagati troppo, noi dove siamo costretti sempre a stringere la cinghia, mentre loro... Però anche così, giustificando sempre quella demagogia e non facendo mai nulla di concreto, forse un piccolo aggiustamento si potrebbe potrebbe anche fare senza, diciamo, compromettere la sussistenza, no, dei parlamentari. Che dice? Che fanno, che propongono, non è quello che guadagnano, perché se uno guadagna tanto però fa le cose che vanno bene, nessuno si lamenta. E beh, terza sì, cosa, forse un po' meglio potrebbero andare le cose. Sì, sì. Prego, prego. Terza cosa, il nostro beneamato Presidente del Consiglio, a me non è che sia tanto simpatico, però la cosa che ha detto non è l'immigrazione, lui ha parlato di immigrazione clandestina, clandestina è diversa, non è che l'immigrazione siano dei delinquenti, l'immigrazione clandestina c'è anche oggi, che oltretutto è un sociologo di sinistra, che ammette con i numeri che è vero, l'immigrazione clandestina, non l'immigrazione, l'immigrazione è una cosa, quella clandestina è un'altra, è lì che c'è soprattutto la delinquenza, forse anche perché non avendo lavoro, non avendo l'altro, è più facile prenderlo, basta, io quello che volevo dire. Grazie Giuliano. Grazie a lei. Grazie, buona continuazione. Sempre Lidia Ravera qui con me, Roberta Giordano, e in realtà è lei in collegamento telefonico, scrittrice, sceneggiatrice, famosissima per Porci con le ali, ha scritto tanti altri libri e saggi, l'ultimo romanzo è La guerra dei figli, e poi Melampo ha pubblicato il suo monologo teatrale La donna gigante. Lidia, volevi commentare qualcosa sulle cose dette dagli ascoltatori finora? Sì, l'ascoltatore che presupponeva una donna in burca che guida la macchina, intanto sarebbe un passo avanti rispetto al fatto alla che non guidino, che non possano guidare. L'emancipazione delle donne soggette al gioco del burca, in genere non possono guidare la macchina, non possono lavorare, non possono fare praticamente quindi niente. Quindi ha un significato ben preciso, con tutta poi una serie di conseguenze. No, di, io di, penso no? che quando, non so, una deve andare a fare una fotografia per la carta d'identità, per i documenti di identificazione, è logico che deve avere il suo viso aperto. Ci sono delle regole che ovviamente sono, come dire, la palissiana e vanno condivise. Da questo a cacciare dalle scuole, dagli edifici pubblici le ragazze con il niqab o con il velo, o quindi quello che copre solo i capelli, dice, copri il capo e velatura di quel genere, ci corre parecchio. E per quanto poi riguarda il terrorismo, avremo addirittura appunto il body scanner che ci radiograferà e metterà tutti nudi davanti al controllo aeroportuale, quindi penso che si vedrà ben sotto il burka e non sarà certo quello il problema. E così come io tra l'altro devo controllare una caviglia, che è un po' che devo fare delle radiografie, vado direttamente lì in aeroporto, assolutamente pensavo, lì sì. Si risparmia tempo e denaro, ecco. E poi dire che l'immigrazione clandestina è un bacino di criminalità, bisognerebbe allora semplificare e razionalizzare le procedure che consentono agli immigrati di non essere più clandestini, perché non è certo una loro volontà, loro vorrebbero guadagnarsi da vivere. Tra l'altro, e lo vedremo quando e se veramente faranno un giorno di sciopero assoluto tutti i lavoratori immigrati che lavorano nel nostro paese, l'Italia si fermerà dalle campagne alle nostre case, dai vecchi ai bambini piccoli, non ci saranno più muratori che ti ristrutturano l'appartamento, che ti danno il bianco alle pareti, non ci sarà più nessuno che raccoglie i pomodori che marciranno, cioè fa parte della nostra economia, coprono una quantità di ruoli che peraltro gli italiani non hanno più nessuna intenzione di coprire, piuttosto muoiono di fame, che è nel loro interesse ma anche nel nostro regolarizzarli, dare loro il diritto di voto, considerarli a tutti gli effetti dei cittadini. A quel punto anche questo ipotetico bacino di criminalità verrà prosciugato. Quindi io penso che forse anche per favorire un clima di convivenza bisognerebbe smettere di agitare la paura dell'immigrato. Diventa una modalità culturale, un uso irresponsabile di qualche cosa di molto naturale che è la paura del diverso. Bisogna eliminarla, non utilizzarla, ingigantirla, radicalizzarla. Anche se, Lidia, e sono d'accordissimo con te, è anche opportuno però ascoltare anche certe tensioni, certe paure, non dare per scontato che siano tutte soltanto fantasie. Ci sarà anche una parte, se su 100 uomini, parlo di maschi, perché le donne quando finiscono male finiscono a fare le prostitute o fanno le colfole badanti, invece il destino negativo è quando vanno a fare le prostitute, difficilmente vengono per ammazzare, violentare, eccetera. Però diciamo su 100 che arrivano uomini, non tutti e 100 avranno delle splendide intenzioni, diciamo un po' di rischio c'è, no? Quindi purtroppo anche tra gli italiani. Ah sì, come no? Come? Prima citavi la mafia come massima azienda italiana anche da esportazione, e certo la mafia è assolutamente nostra, nasce nel sud del nostro paese, da lì prolifera e viene anche esportata, quindi non possiamo considerarci delle anime belle solo perché siamo italiani. No, siamo d'accordo. E adesso però, a proposito di bello, capiamo se c'è del bel tempo magari che ci aspetta per la prossima settimana. E chi può dircelo se non il colonnello Giuliacci, in estrema sintesi, come sempre io costringo poi i miei ospiti ad essere dei turbojet praticamente. Colonnello carissimo. Ciao Roberta, mi lasci sempre gli spiccioli, andrò veloce come... Ma solo le persone capaci lascio gli spiccioli, perché sennò vedi, io mi dilungo per esempio. Allora, sì. Guarda, questa fase fredda che è iniziata martedì con già delle nevicate in pianura al nord, bene, proseguirà almeno fino a martedì, mercoledì della prossima settimana, anzi nelle prossime ore, è destinata a aggravarsi sia in termini di fenomeni che di freddo. Domani e lunedì saranno due giornate fredde stile come abbiamo assaggiato tra il 10 e il 20 di dicembre. Bene, un inverno cosa vero, possiamo sì. dire in particolare? Già sta peggiorando sulle regioni tirreniche, piogge su gran parte in questo momento delle regioni centrali, perché si sta avvicinando un nucleo di aria fredda, questa volta dalla Siberia, non più l'aria mite dal nord del Canada che dopo aver attraversato l'Atlantico. C'era un'evocazione siberiana, ecco, sì, in questo tempo. Quindi questa ondata di freddo siberiano porterà già nella sera delle nevicate sull'Emilia, sulle Venezie, quindi dopo non dice che non vi abbiamo avvisato. Bene, nella notte le nevicate ancora interesseranno l'Emilia Romagna, domani neve sull'Emilia Romagna, le Marche, l'Umbria, sto parlando di pianura, nevicate fino a bassissime quote su tutte le regioni centrali, potrebbe sfiorare qualche fiocco di neve anche Firenze, tanto per dire. Bene, e quindi domani è una giornata difficilissima, ancora una giornata difficile lunedì per il freddo, ma anche per le piogge che ancora insisteranno sul meridione, nevicate fino a quote molto basse sulle regioni meridionali, poi martedì insiste il freddo, ma ormai i fenomeni sono finiti, poi da martedì Poi di sollievo, temperatura risalita, ma venerdì, attenzione, arriva un'altra bordata, ecco. Che potrebbe, faccio una previsione con 7 giorni d'anticipo, portare la neve di nuovo sul Piemonte, sulla Lombardia, sull'Emilia, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, ci attendono 10 giorni ancora di tempo invernale puro, voglio dire, dove puro intendo dire c'è il freddo in agguato, ci sono i venti forti in agguato, ci sono le nevicate in agguato anche in pianura al centro nord. Un inverno vero e comunque sia per te, insomma, un caldo abbraccio, caro colonnello Giuliacci. Grazie Roberta, anche a te un abbraccio, un saluto agli ascoltatori. C'è intanto Guido da Milano, al quale chiedo, siccome c'è anche Valeria della Valle tra pochissimo, alla quale voglio sottoporre una parola di questi giorni. Guido, mi devi perdonare, ti chiedo il titolo e un commento di 2 secondi, Guido, scusami, sulla tua notizia. Sì, posso in linea? Sì, Guido, però ti posso dare proprio 3 secondi. No, mi spiace, l'argomento l'avete già più che abbondantemente trattato, è quello del burka. Io ho telefonato solamente per una cosa, perché ho sentito la sua ospite che parlava di femminismo e quant'altro legato al burka. Io la vedrei molto più semplicemente invece la questione. Si tratta di un semplice rispetto delle leggi, e che vuol dire poi il rispetto dei cittadini, perché chi fa le leggi è il Parlamento su delega dei cittadini. Bene, Guido, perdonami, mi sembri sei stato comunque capace e lapidario. Non ho altro tempo, anche perché voglio appunto introdurre la parola della settimana con Valeria Della Valle, docente linguistica italiana alla Sapienza di Roma. Valeria carissima, nei 43 secondi che abbiamo. Allora, volevo chiedere, si è parlato a proposito di politiche di regionali, questa parola proprio inflazionante, i forni, il doppio forno, quello vuole cuocere il forno, il pane di là, il pane forni, che fanno forni. I pizzaioli, questi politici non si è capito, ok? Ecco, non si è capito. Allora, intanto parlavate all'inizio della trasmissione di conformismo, qui direi che siamo di fronte a un caso di conformismo linguistico, cioè un'espressione che diventa un tormento e sembra che non siano più capaci se non di usare questa come i bambini elementari, dicono una parola, tutti la ripetono, sì. Ecco, tutti la ripetono. In realtà questa, cioè la strategia dei due forni, cominciò alla fine degli anni 70 a usarla Andreotti. Quindi a proposito del partito di maggioranza relativa che avrebbe dovuto rivolgersi alternativamente al PC e al PSI, a seconda di chi dei due facesse il prezzo del pane più basso. E adesso è stata, non era mai morta del tutto l'espressione, ma è stata rispolverata in particolare a proposito di Casini, indicato come l'uomo dei due forni, oppure da qualcuno addirittura dei tre forni, la politica di nuovo del doppio forno. Insomma, sguazziamo in mezzo a questa espressione, che poi non è altro che un'espressione eufemistica, perché allude in realtà a un atteggiamento opportunista, di trasformismo. Forse il più spiritoso tra tutti quelli che hanno usato l'espressione è stato Nichi Vendola, che ha detto: i due forni a me volevano far fare la parte della legna. Insomma, morale, sì, come al solito, concludendo, ma anche le metafore, gli slogan, quando si ripetono troppo spesso, finiscono per logorarsi, e addirittura in questo caso direi speriamo per bruciare presto, proprio come la legna. Grazie Valeria Della Valle. Adesso, mentre chiedo tra un istante 5 secondi di conclusione da Lidia Ravera, vi ricordo che se avete voglia durante la settimana che sta iniziando, cioè da domenica, lunedì, di mandarmi commenti sulle notizie della settimana, la mail è non ci sono più le mezze stagioni @radio24.it. Non ci sono più le mezze stagioni, tutto attaccato senza l'accento sulla U. Lidia Ravera, proprio 3 secondi, una conclusione, una morale. Speriamo in una settimana migliore, con delle notizie più allegre e soprattutto con qualche schiarita sulla tragedia della disoccupazione. Siamo arrivati a 2 milioni di disoccupati, siamo all'8,5%, punte del 26% sui giovani. Questo vuol dire dolore, dolore e fatica di vivere per tante famiglie. Bisogna pensarci, bisogna fare qualcosa. Auguriamoci che si sblocchino un po' di situazioni, Termini Imerese e altre, che si sblocchino queste situazioni, perché dietro a questi operai che sono di nuovo in lotta c'è la sofferenza di uomini, donne, bambini, di nuclei familiari. Bisogna pensarci. Grazie di aver, confidiamo anche nel suo ottimismo. E da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.